9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 12 di aprile. Oggi la puntata è dedicata a uno dei nostri rituali, se mi consentite questo aggettivo. Non è un rito, ma insomma è una buona abitudine che abbiamo assunto e che vi proponiamo, quella di incontrare e approfondire i temi del giorno, ma non solo i temi del giorno, un direttore di testata l'informazione. Abbiamo ospitato i direttori del TG2, del TG3 con Bianca Berlinguer settimane fa. Oggi è nostro graditissimo ospite, anzi io lo ringrazio molto di essersi reso disponibile, perché per un direttore di carta stampata, insomma, iniziare buttando via dal suo punto di vista nell'arco della giornata un'ora da dedicare alla radio è comunque uno sforzo per come si deve organizzare poi, e quindi ve lo presento e molto lo ringrazio, il direttore della stampa Mario Calabresi. Buongiorno Calabresi. Buongiorno. Ecco, di solito io faccio lunghi pistolotti, ma oggi non mi serve fare introduzione ai nostri ascoltatori che si sono ormai abituati. Con i direttori, i nostri ospiti, noi approfondiamo prima un pochino la maniera con cui interpretano personalmente la loro modalità di interpretare la testata che è stata loro affidata, di organizzare la gerarchia delle notizie. In questo caso, siccome stiamo parlando di carta stampata, mentre con i colleghi dell'informazione televisiva e radiofonica pubblica è capitato che poi ce ne occupassimo insieme a loro durante i limiti che erano stati introdotti durante la campagna elettorale, era inevitabile parlare poi, e molto lo abbiamo fatto anche con Bianca Berlinguer, tentando di evitare sanzioni, cosa che non è stata facile quella volta, ma insomma criticando un pochino la modalità con cui la politica spesso ci pone dei limiti nel fare il nostro mestiere. Però oggi, se Dio vuole, la campagna elettorale è terminata e quindi io comincerei facendole alcune domande. Io tra l'altro sono torinese, quindi ohimè sono direttamente interessato, dichiaro il mio conflitto di interesse su questo, perché sono cresciuto in quella città e ohimè ho una lunga teoria da quando ero ragazzino, di teoria nel senso di processione di direttori della stampa in cui mi sono imbattuto e che ci hanno aiutati fin da quando eravamo piccoli a formarci, perché noi siamo cresciuti col fatto che la stampa si portava nelle scuole, la compravamo noi, e però poi alla fine dalle scuole elementari, pensi un po'. Allora la prima domanda è, ma insomma, per uno che poi tutto sommato non è un torinese, non è, ci ha lavorato anni, perché ricordo a chi è in ascolto che lei inizia l'ANSA, poi grandi giornali come Repubblica, presto crescita di responsabilità e di grado, la stampa, Repubblica, la stampa, direttore a 39 anni. Per un giornale comunque che è a diffusione, che si potrebbe considerare locale, ma in realtà è una testata nazionale da sempre una testata nazionale, insieme al Corriere della Sera e poi successivamente Repubblica, è una di quelle che orientano il dibattito pubblico delle classi dirigenti. Allora la questione è, quando si arriva in questi anni in cui le copie un po' per tutti flettono, al di là della difficoltà della crisi, ma perché c'è una difficoltà della carta stampata italiana, e bisogna interpretare da una parte i doveri economici, perché i formati si sono ridotti e lo spazio per le notizie rispetto a quello della priorità da dare alla pubblicità tendenzialmente è sempre un po' in conflitto e ha comunque priorità diverse da quelle delle lunghe lenzuolate e larghe lenzuolate del passato. In questo caso, quando ci si trova con una testata che ha una storia così autorevole e con la necessità di fare quadrare i conti da una parte, interpretare un'anima locale di cronaca, che è quella che poi continua secondo me a fare molto vendere i giornali, con la necessità di una forte attenzione alla classe dirigente, alla politica internazionale, lei poi è stato anni negli Stati Uniti, ha seguito la campagna elettorale per il 2008, non è un po' complicatuccio? Come si fa allora a quel punto? Arriva il direttore nuovo, cioè lei, quando è arrivato lei, e tenta una cosa completamente diversa prima, oppure può innovare ma fino a un certo punto? Come le è venuto di fare? Quanto ha innovato e quanto si aspettavano che innovasse? Ma intanto buongiorno. Diciamo che io sono arrivato probabilmente nel peggior momento possibile, perché sono arrivato un anno fa, il 29 di aprile del 2009, dopo il peggior trimestre per i quotidiani, non solo italiani, diciamo tutti i quotidiani occidentali, cioè dopo il trimestre del crollo della pubblicità. Per cui mi sono trovato un giornale in emergenza dal punto di vista dei conti, dal punto di vista della tenuta, perché quando la pubblicità, si perde quasi un terzo della pubblicità in un trimestre, bisogna correre ai ripari. diciamo che la prima, io per tanti anni pensavo come mi sarebbe piaciuto fare un giornale, ma nel momento in cui sono arrivato la priorità non era quella, ma era cercare di tenere in piedi tutto, di far quadrare i conti. Cioè lei appartiene alla cosiddetta generazione del miracolo, come chiamo io, cioè di quella a cui gli editori e i lettori e gli affezionati chiedono in realtà di fare un miracolo. Sì, forse così. Diciamo, una cosa mi ha colpito, che per anni abbiamo visto che i direttori arrivavano nei giornali e la prima cosa che facevano era fare un po' di shopping, compravano un po' di giornalisti nelle altre testate e partivano con la loro squadra, con 4, 5, 6 nuove assunzioni che davano un po' il segno della direzione in cui si voleva andare. Ecco, diciamo che io sono arrivato e tutto questo non era possibile, quel tempo lì era finito e probabilmente è finito. Anzi, di solito lei appartiene alla generazione a cui gli editori, quando le nominano, ti danno la lista dei tagli che vuoi. Esattamente, questo è stato il problema di partenza. Diciamo che la particolarità della stampa, la stampa sono sostanzialmente due giornali in uno, questo l'ho sempre pensato ed è ancora valido oggi. Per tanto tempo è stato visto come un limite, perché era un giornale che aveva due terzi delle sue copie nel nord-ovest e un terzo nel resto d'Italia, un giornale che ha sempre fatto lo sforzo di allargarsi, di diventare nazionale, di avere una grande attenzione alla politica estera e su questo concentrava il suo sforzo. Io devo dire che però ho visto il radicamento non come un limite, ma oggi forse come la fortuna di questo giornale, in questo senso. Il radicamento, soprattutto in Piemonte, in Liguria, in Valle d'Aosta, garantisce il fatto che c'è uno zoccolo duro di lettori che danno una sicurezza. Infatti, come numero di copie, la stampa ha una buona tenuta, anche nel momento più duro l'anno scorso. Il primo problema era la pubblicità, non erano le copie, e questo non è poco, perché dà una sensazione che i lettori ci sono e i lettori tengono. Bisogna partire quindi da questo dato. Nell'idea però di ripensare il giornale e i tagli da fare, io quindi ho immaginato che si dovesse tenere la stessa presenza sul territorio, quindi tutte le edizioni che ha la stampa in tutte le province, per esempio del Piemonte e della Liguria, erano da salvare, da non toccare, perché quel tipo di cronaca aggressiva, se uno pensa che noi abbiamo in edizioni come quella per esempio Alessandria, Cuneo, Novara, di 32 pagine locali, cioè oltre all'edizione nazionale ci sono 32 pagine aggiuntive, quello è un valore che non può essere toccato. Dall'altra parte però ho cercato di rivedere i conti per salvare anche tutta la presenza internazionale, perché questo è un giornale che ha tre persone a New York, che ha il corrispondente a Londra, a Bruxelles, a Parigi, che ha una persona fissa a Pechino, e tutto questo secondo me andava salvato, perché probabilmente questo fu un vezzo dell'avvocato Agnelli, cioè l'idea di avere un giornale che aveva diciamo un radicamento locale, ma che si poteva permettere di avere i corrispondenti di tutto il mondo, si poteva permettere di avere, non lo so, un editorialista come Henry Kissinger. E allora io ho pensato che questo fosse il suo DNA che andava salvato, e bisognava lavorare sulle altre voci, asciugare quello che c'era, che si poteva fare all'interno della redazione, tagliare sui costi delle fotografie, delle collaborazioni, però salvando la formula. E diciamo così che nei primi giorni, quando l'amministrazione che aveva necessità di tagliare mi diceva ma qual è la formula di giornale, a me che non sono torinese ma sono milanese, ma di madre torinese, di nonni piemontesi, mi è venuto in mente che la formula della stampa si potesse forse definire quella del vitello tonnato, cioè che apparentemente stride l'idea di fare un giornale con una grande attenzione alla politica nazionale e agli esteri, però con un grande radicamento locale, che queste cose non andavano in conflitto, ma se fossero state ben dosate potevano essere come il vitello col pesce, col tonno, che se uno lo dice come idea può non funzionare, ma se poi è realizzato bene funziona benissimo. Beh, ed è buonissimo da mangiare. Questo omaggio alla tradizione culinaria piemontese secondo me è abbastanza azzeccato. A me, poi non so dire quanti nel resto d'Italia, però in realtà il vitello tornato è abbastanza noto a tutti. Per così dire, quanto tempo ci ha messo una volta che l'hanno chiamata a capire davvero che cosa, non che cosa voleva fare, questo l'ha già detto prima che ha dovuto metterlo un secondo nell'angolo, poi si vedrà col tempo, ma come sarebbe uscito davvero dalle sue mani il suo prodotto? Quanto tempo ci vuole quando si viene chiamati in momenti di emergenza ad assestarlo prima di poter dire vabbè, siamo al 30% lontani, ma iniziamo a essere non troppo lontani da quello che mi piacerebbe come prodotto cui c'è la mia firma tutti i giorni? La verità è che io inizio a essere soddisfatto adesso, quasi un anno dopo. I primi 4-5 mesi sono stati tutti di emergenza e tutti puntati sui conti a cercare di fare un piano che tenesse il giornale in equilibrio e non imponesse delle scelte che io non volevo fare. Per dire, noi abbiamo una grossa redazione a Roma e una redazione anche abbastanza cospicua a Milano. E io volevo far sì che queste presenze non fossero messe in discussione, mentre all'inizio l'idea era che si potesse anche per esempio chiudere la redazione di Milano, ma io pensavo che questo, che l'idea che la stampa chiudesse Milano non era una cosa da fare, anche se nel mondo questo è stato fatto. Se pensiamo con un giornale come il Washington Post, che si è sempre vantato di essere uno dei grandi giornali americani, oggi non ha più redazioni a New York, a Chicago, a Los Angeles, ma ha tutta la sua redazione, ha dei corrispondenti locali, ma tutta la sua redazione sta a Washington. Questa qua era una cosa all'ordine del giorno, che si sarebbe potuta fare. Ecco, io su questo ho una domanda un po' tough, nel senso che io ho un'esperienza, diciamo, probabilmente assolutamente, incomparabilmente meno autorevole, però diciamo, ho passato anni girando per giornali e mi sono un po' fatto l'impressione, un po' polemica verso la categoria, per così dire, verso la nostra categoria, per come è organizzata in Italia. Cioè, spesso io trovo che l'esigenza di dover tutelare il com'è e dov'è, cioè l'organizzazione storica delle redazioni, delle qualifiche, del mansionario, eccetera, eccetera, tende a impedire a molti di noi giornalisti di capire che assecondare l'evoluzione del mercato, la sua logica dei costi, ma tentare anzi di cavalcarla, di mettercisi alla testa di queste trasformazioni, per evitare poi di scoprire, io quando faccio i corsi all'università ogni anno comincio a chiedere ai miei studenti: quanti di voi comprano un giornale? Non lo trovano a casa, comprano un giornale giornalista, non sportivo. Quest'anno, lo dico sempre all'inizio del corso, siamo a 2 su 100, che significa non avere più un pubblico oramai sotto i 25 anni o quasi. Allora, i giornalisti credo che su questo stiano ben seduti, con tutte le eccezioni, ma dietro una difesa molto tosta e corporativa che ha impedito alla fine dei giornali, ai giornali italiani, di fare quello. Lei citava adesso il Washington Post, ma se uno va a vedere i media i britannici, americani, che cosa hanno fatto? Hanno tentato di non farsi uccidere solo dalla crisi, ma di mettersi un po' in onda. Non è un po' così, troppo così in Italia? Adesso so che un direttore non può mettersi, sì, no, ovviamente a parlare male, però non è un po' troppo così? No, io devo dire però questo, che questa rigidità fortissima c'è sempre stata e c'è. La crisi però ha lasciato molto il segno anche nei comportamenti e nella testa delle persone. Qualche anno fa, ma ancora un anno e mezzo, 2 anni fa, si pensava che un giornalista della carta stampata non potesse scrivere per il sito internet, che erano divisi, che a sito internet ci dovevano essere dei ragazzini che facevano quel lavoro lì, che era un'altra cosa. Secondo me oggi l'idea che il giornalismo, che se tu sei giornalista della stampa non sei giornalista della carta, ma sei giornalista di tutto quello che la stampa può produrre e può mettere su sistemi diversi, per cui che può andare sull'iPhone e può andare su internet, questo io penso che sia passato. Siamo anche nella nostra categoria, per la prima volta c'è un'evoluzione nel modo di ragionare su questo e nel modo di pensare. Io la prendo per ottimismo della volontà, perché io trovo che molto spesso i giornali italiani, dovendo spiegare ai propri lettori, guardate che è giusto Termini Imerese, guardate che è giusto la flessibilità nel mercato del lavoro, interpretiamo la necessità che non troppa rigidità per creare occupazione aggiuntiva, anche poi se noi non lo facciamo. Poi noi siamo i primi che quando ci toccano la scrivania e il computer, comitato di redazione. Io trovo che questo ci sia un po', ma sì, naturalmente questo c'è, però io devo dire questo, la discussione che io ho fatto, e abbiamo fatto parecchie discussioni anche allargate dentro il giornale, e la discussione è stata proprio così, ma non possiamo pensare che in un paese in cui c'è appunto Termini Imerese, è richiesta a tutti una flessibilità, in cui noi tutti i giorni raccontiamo queste cose e poi queste cose non valgano qua dentro, non possiamo pensare che noi siamo qualcos'altro. Però nello stesso tempo i giornali americani, che stanno facendo benissimo, e anche i giornali inglesi, il passaggio per esempio alle nuove tecnologie, l'idea che appunto quello che un giornale fa e produce tutti i giorni possa essere diffuso, ognuno se lo prende con la piattaforma che vuole. Dall'altra parte però il taglio dei costi, fatto in una maniera un po' cieca e fatto dalle amministrazioni, ha impoverito tantissimi giornali. Io penso per esempio, c'è un giornale che era un grande giornale americano, il Miami Herald, io l'ho visitato varie volte negli ultimi anni, e l'ultima volta che sono andato, la prima volta nel 2002 c'erano quasi 600 giornalisti, l'ultima volta ne ho trovati meno di 300, corridoi vuoti, il palazzo è diventato un bellissimo palazzo Art Deco, è spettrale oggi, perché cammini, ci sono interi settori, corridoi spenti, tutto buio. Questo però alla fine ha fatto perdere molte copie, perché si sono spenti con le redazioni anche le attenzioni su un sacco di aree, su un sacco di temi che invece i lettori... No, giustissimo, io capisco, la difficoltà sta nell'intreccio giusto, il giusto equilibrio tra conti, costi, evoluzione dei prodotti e non perdere logica del mercato. Però ammettiamolo, almeno io lo posso ammettere senza troppi problemi, stante il fatto che preferisco oramai le polemiche e prendere la porta piuttosto che... Un paese in cui ci sono aziende editoriali molto grandi e della grande storia, come RCS, non lo so, che perdono centinaia di milioni di euro di più, e in cui il meglio del capitalismo di quel paese si prende a pugni, per così dire, per entrare in consiglio di amministrazione, sono paesi un po' anomali, cioè vuol dire che l'informazione da noi è dall'alto, che non viene praticata come modello, proposta come modello a chi poi dirige i giornali, eccetera, innanzitutto di prodotto, che deve mai smarire la logica di essere un prodotto. In Italia lo sappiamo, l'informazione ha anche un'altra logica sottostante, forse addirittura prevalente, visto che poi le perdite vengono incassate e gestite. Le dirò così. Però una cosa, adesso sono ironico, non ho la fortuna di avere gli azionisti del Corriere della Sera, in questo senso che sia John Elkann che Marchionne, entrambi mi hanno chiesto, a noi però interessa un giornale, un'azienda editoriale che è capace di stare in piedi con le sue gambe. Ma anche perché ci stupiremmo se Marchionne non la pensasse, esatto, così per i giornali. Marchionne, che lo pensa per la Fiat, ogni volta che mi vede dice: i conti sono a posto, quando è che state in piedi da soli? E allora l'idea è che noi dal prossimo anno dobbiamo stare in piedi da soli. E questo è da una parte una garanzia in un certo senso, che il giornale quindi ha una sua diciamo autonomia, perché non viene utilizzato per, come dire, non si mette nell'ordine di idee che pazienza, anche se ci fa perdere soldi, però ci serve come qualche cosa che poi ha un tornaconto diverso da quello editoriale, ci serve, e quindi è una spesa che noi paghiamo per fare dell'altro. E quindi da questo punto di vista è faticosissimo, ma è anche una garanzia per me, devo dire, la vivo anche come una garanzia di libertà, perché nel momento in cui riesco a mettere i conti a posto, in quel momento il giornale risponde di quello che fa, non è che ha bisogno tutte le volte di dire sì, ho capito, ma io vi servo per fare qualcos'altro. Infatti devo dire che mi piace molto questa impostazione, perché una volta chiarita bene la sfida, se uno poi la vince nei confronti della proprietà è ancora più libero di quanto sia per le semplici garanzie di autonomia e di indipendenza che deve avere, anche se naturalmente di fronte ai colpi della crisi, a volte penso che avere il beato Frassati nelle ascendenze del giornale possa magari servire a dare una mano, perché a volte per trovare l'equilibrio nei conti quando ci sono crisi di queste proporzioni è veramente molto dura. Ora ho un po' di pubblicità e poi torniamo con le prime telefonate e anche a sentire l'opinione del direttore su un po' di fatti aperti nel nostro paese. Eccoci tornati in studio per questa seconda parte della trasmissione di oggi, lunedì 12 aprile 9:33. Abbiamo con noi il direttore della Stampa, Mario Calabresi. Abbiamo visto con lui un pochino come ha preso in pugno questa sfida, chiamato nella generazione di direttori giovani, ma chiamati anche nel momento in cui la crisi colpiva più duramente bilanci, copie, diffusione dei quotidiani. Ci ha spiegato come ha interpretato la sua azione alla Stampa, dicendoci: adesso inizio un pochino a vedere finalmente, dopo i primi mesi di emergenza, la Stampa che avevo in mente. Mi pare di capire che lui prevalga l'ottimismo, cioè non è un disperato, lui dice: si può fare, si può tornare ad avere conti in regola, a difendere le diffusioni, ad avere il giusto mix tra le cronache locali, quindi un grande spazio ancora all'informazione locale. Io sono convinto che sia uno dei drive di radicamento e di difesa del prodotto giornale anche tra i giovani. Questi, a molti colleghi che ritengono che invece la cronaca sia una roba del passato, non ho mai saputo opporre, se non il fatto che mi pare non abbiano studiato abbastanza la curva della diffusione della carta stampata italiana, perché è un fatto che testate storiche, magari, che siamo poco abituati a citare nel grande dibattito pubblico, nazionale, politico ed economico, sono quelle che, difendendo la cronaca, hanno secondo me ancora agli occhi dei propri elettorati un senso che non è semplicemente di polvere, come invece molti dei miei studenti o molti studenti italiani dicono: ma la carta stampata che senso ha? Io vado su internet e faccio tutto. Da questo punto di vista il sito di un giornale è una cosa di cui è giusto che si occupi il direttore dell'edizione stampata, oppure non ci sarebbe bisogno, come capita altrove nel mondo oramai, di direttori, organizzazioni, giornalisti completamente diversi? No, io penso proprio il contrario, nel senso che bisogna romperla questa idea che invece in Italia c'è stata, che siano due cose diverse, due giornali diversi. Io penso questo, che non dobbiamo, adesso nel mio ottimismo, forse potrà far sorridere, però io adesso ho 40 anni, penso: beh, se non sono ottimista sul futuro del giornalismo, è meglio che vada a fare un'altra cosa, mi organizzo in fretta per fare qualcos'altro. Ma il punto è che pensare che siccome i giovani leggono poco la carta, allora il giornalismo sia costretto, veda la sua fine in breve tempo, io penso che sia completamente sbagliato. Perché se noi facciamo la somma di chi oggi legge i giornali in rete, di chi li legge su carta, i lettori sono molti di più di quelli che ci sono sempre stati, e per cui questa va vista come un'occasione. Il problema dal punto di vista pratico e tecnico è che oggi la pubblicità paga molto meno soldi su internet, e quindi chi lascia la carta e va su internet teoricamente ci dà un meno reddito di quello che si aveva tradizionalmente. Però l'idea è che si debba fare lo stesso tipo di giornalismo e poi lo si debba declinare diversamente. Noi siamo andati sull'iPhone, stiamo lavorando su questa nuova piattaforma che sarà l'iPad. Io mi sono fatto portare subito un iPad dagli Stati Uniti il primo giorno in cui è uscito, e stiamo ragionando su come si potrà fare il giornale lì sopra. Penso però che questo vada tenuto insieme, non siano da staccare le cose. E certo ci saranno pezzi diversi, sul sito le cose devono essere per forza più asciutte e più brevi, però non per questo devono essere più superficiali o più stupidi o soltanto di intrattenimento. Certo, il giornale di carta però deve anche ripensarsi, perché noi non possiamo pensare che il giornale di carta, quando tu chiedi 1,20 euro a chi ti compra in edicola la mattina, non gli puoi ridare le stesse cose che ha sentito senza spendere nulla, un centesimo, la sera prima ai telegiornali, o che ha visto, ha sentito alla radio o ha visto sul televideo o sul sito. Bisogna dargli, quindi la carta deve avere, da una parte, essere capace di darti quello che parlavamo prima, il radicamento, per cui darti un'informazione locale forte e radicata, e dall'altro però deve imparare a fare più approfondimenti. Cioè il valore aggiunto deve essere che in questa questo grande rumore di fondo che è l'informazione che oggi ci arriva da tutte le parti, io l'ho fatto, ho fatto un giochino, un esperimento, ho chiesto a un sacco di persone come avevano avuto la notizia che era morto Mike Bongiorno. Neanche una persona di quelle a cui l'ho chiesto mi ha risposto leggendolo su un giornale. Certo. Chi mi ha detto l'ho saputo dal portinaio, mi è arrivato un sms, l'ho sentito alla cassa del supermercato, era in macchina, l'ho sentito alla radio, ho aperto il computer e l'ho visto sui siti. Nessuno ha avuto questo dalla carta. La carta cosa deve fare allora? Deve raccontare la storia di Mike Bongiorno, deve raccontare la sua vita e su tutto il resto deve essere capace di dare chiavi di lettura, fare approfondimento, fare inchieste, nel senso di spiegare perché i fatti accadano, tirare dei fili perché le persone possano farsi un'idea in mezzo a questo rumore di fondo. Io penso che questa sarà la funzione dei giornali. Bene. I giornali dovranno essere in modo più snelli, avere quello che dicevo la cronaca e dall'altra parte avere più analisi e più chiavi di lettura. Allora, io inizio con le telefonate, subito dico a Mario Calabresi che c'è un blocco di sms con moltissime sms su almeno tre argomenti, poi quando comincio a dare risposta anche alle telefonate segnalo che sono questi tre argomenti. C'è un blocco di argomenti che è rimasto molto colpito dalle asimmetrie delle tutele per i giornalisti rispetto al resto delle categorie italiane, me lo aspettavo, per questo abbiamo già toccato il punto, però volevo informare, ci sono parecchi ascoltatori che dice vi date aria da intellettuali quando siete al vostro posto, è un po' dura che voi riusciate a criticare quelli della CGIL che vogliono difendere gli operai, ma voi fate molto peggio nei vostri giornali. Quindi c'è un blocco di gente che considera i giornalisti italiani troppo ben pagati, troppo tutelati e soprattutto una minoranza così, quella storica, rispetto ai tanti con cui poi si finisce per fare i giornali, sfruttati e iperprecari. Secondo blocco di osservazioni, vogliono sapere dal direttore della stampa come la pensa sui finanziamenti pubblici all'editoria. È giusto che restino indiretti anche per centinaia di milioni ai grandi gruppi editoriali? È giusto che si taglino solo quelli indiretti ai grandi gruppi editoriali e restino poi a quelli di partito e cooperative? Oppure bisognerebbe semplicemente accettare l'idea che sta in piedi chi ha i conti per stare in piedi? Ecco, innanzitutto queste due questioni, è inutile che sottolinei a Calabrese che ce n'è un mucchio che poi chiedono, c'è libertà di informazione, quanto pesa il fenomeno Berlusconi in Italia? E a questo anche bisogna che dai una risposta. Adesso il primo ascoltatore che è Lorenzo da Roma. Prego Lorenzo, ci dica. Buongiorno direttore. Farei una domanda al direttore Calabresi, proprio in merito al giornalismo online e quindi alla cura dei siti. Insomma, io sono un fruitore ovviamente di questo prodotto e mi sono accorto che ormai da anni il giornale lo compro solamente la domenica e ricevo due riviste in abbonamento, ma le notizie quotidiane le leggo solamente online. Ecco, mi sembra che confrontati con i siti web di giornali come il New York Times, il País o il Guardian, la qualità delle edizioni online dei giornali italiani, io posso parlare solo per La Stampa e Corriere della Repubblica, che sono quelli che leggo più di dovente. Che frequenta, sì. Gli sembrano più bassa la qualità? Molto, molto più bassa. Sì. Soprattutto mi sembra che ci sia, e questo stride perché la struttura dei costi di questi giornali penso che sia tutto sommato non leggera per cose di... ecco, sì. No, ma mi sembra che strida la presenza invasiva di pubblicità, di richiami ossessivi sempre alla televisione, di arrivare a donne nude con due click. Io capisco che il click counter sia importante per i siti web, ma penso che proprio per l'importanza che abbia oggi però di sicuro sul sito di New York Times, Washington Post, il click per arrivare a donne nude non si trova. Assolutamente. Esattamente. Assolutamente. Ok, chiara domanda di Lorenzo. Vediamo ancora Felice dalla provincia di Monza. Prego Felice, ci dica. Grazie tante a tutti. Volevo chiedere questo, il direttore prima ha detto chiaramente che ci sono dei giornali che non badano esclusivamente al ritorno economico perché sanno che in ogni caso avranno un altro tipo di ritorno di editori che sarà politico, di lobby eccetera. Premesso questo, come fa il lettore a difendersi da questa preponderanza di politica e di altri fini nell'informazione? Voglio dire, è possibile creare qualcosa che faccia in modo che il lettore di Repubblica ogni tanto compri anche il giornale e viceversa? All'estero è lo stesso, c'è lo stesso questo bianchi e neri anche nella stampa. Grazie. Bene, la domanda di Felice ha a che vedere con il lettore mediano rispetto al lettore tribale, se mi passa un po' l'espressione sintetica, il direttore Calabresi. Ecco, Calabresi, c'è una bella batteria di temi da toccare. Diciamo così, cercherò di essere sintetico su tutte queste cose. cose. Allora, la polarizzazione nei giornali non è una cosa soltanto italiana, ma c'è nell'informazione anche all'estero. Parlava degli Stati Uniti, primo degli ascoltatori, se guardiamo agli Stati Uniti in questi anni c'è stata una polarizzazione soprattutto nell'informazione televisiva altissima. Oggi Fox, che è una televisione conservatrice di Rupert Murdoch, ha superato CNN perché si è schierata, oggi fa una grandissima campagna contro l'amministrazione di Barack Obama. Dall'altra parte ha successo una televisione nuova, tra virgolette, come MSNBC, che è una televisione invece molto radicale, che noi definiremmo di sinistra. E quindi questa polarizzazione, la ricerca di mezzi di comunicazione e informazione in cui ci si riconosce, è molto forte anche all'estero. Io penso, io che dirigo un giornale che ha un radicamento non territoriale, quindi la sua comunità è una comunità territoriale, non è una comunità legata a una parte politica, penso che invece si debba cercare di uscire da questa polarizzazione. Io rifiuto l'idea che ci sia una sorta di bipolarismo vada applicato anche ai giornali, che i giornali debbano stare di qua o di là. Rifiuto l'idea del salotto di Vespa, che anche i giornalisti si debbano sedere o nelle poltroncine di destra o nelle poltroncine di sinistra. Lo faccio da un punto di vista perché ho sempre pensato che l'informazione da questo punto di vista debba cercare di avere una sua curiosità e un suo modo di muoversi non stereotipato e non ideologico, e lo faccio anche dal punto di vista, per una ragione pragmatica, perché ho metà dei lettori che votano per il centrodestra, sostanzialmente metà che votano per il centrosinistra. Detto questo, certo le proprietà influiscono e le cose sono alla luce del sole. L'importante è quando gli interessi della proprietà siano dichiarati alla luce del sole. Nessuno si aspetterà mai, e sarebbe stupido pensare al contrario, che la stampa ad un certo punto, che io comincio a fare una campagna in cui dico dobbiamo vivere in un mondo senza automobili. È sotto gli occhi di tutti, la proprietà di questo giornale oggi è della Fiat, e quindi è difficile pensare che qualcuno qui possa fare una campagna di quel tipo. Detto questo, questo dato è sotto gli occhi di tutti e è inutile far finta che non esista, nasconderlo ai lettori. L'idea dei click, dei siti, dei calendari con le donne nude e tutto il resto, questo non esiste negli altri paesi. Noi è un limite dei siti italiani e lo abbiamo fatto perché ci siamo fatti prendere tutti dall'ubriacatura dell'idea che fare contatti sia la cosa più importante, che l'importante sia solo il numero dei contatti. Cioè, io penso che questa la cosa dei contatti, non mi stupisce che poi siamo l'unico paese al mondo in cui gli incentivi per la ricerca alle imprese addirittura stanno col click day, che in pochi secondi, senza istruire le pratiche di chi ha buoni progetti e chi no, dice esauriti i soldi, care imprese italiane, ci dispiace. Cioè, penso che questa mania del click sia una cosa trasversale un po' più ampia solo delle copie dei giornali o dell'autorevolezza, perché è come l'idea, come mai calabresi in Italia il numero di copie diffuse per decenni dai tempi di Albertini, il giornale universale italiano, è diventato il metro della sua autorevolezza. Non è che Le Monde mai è stato il giornale più diffuso in Francia, eppure era più autorevole, e così via. Però funziona così. Io penso che la stampa vende poco meno del Financial Times. Il Financial Times dovrebbe essere disperato di vendere 400.000 copie, invece gli va bene perché ha la qualità dei lettori. Proprio sui click, per esempio, il Financial Times cosa ha fatto? Non è interessato al numero dei click, ma è interessato alla qualità di chi va sul suo sito, perché pensa che sia importante avere una comunità di persone che vanno lì e cercano qualità, non è importante che ci arrivino milioni di persone. Stop un minuto perché abbiamo l'irruzione dell'informazione sulla circolazione stradale, un minuto poi do subito di nuovo la parola a Calabrese. Eccoci tornati in studio, avevo interrotto Mario Calabresi che stava rispondendo a tutta la serie di questioni che si erano accumulate. Ne aggiungo un'ultima con Marco da Roma, l'ultima telefonata dell'ascoltatore, poi gli restituisco la parola. Marco da Roma, prego, ci dica Marco. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Si figuri. Volevo semplicemente un approfondimento sul discorso soprattutto dell'iPad, cioè strategicamente come organizzazione del giornale, come si intendeva affrontare questa nuova tecnologia che leggo adesso da internet che Murdoch rappresenta come il salvatore dei giornali. Bene, bene, bene, aggiungiamo anche questa specifica domanda che già però Calabrese aveva detto che lo stanno studiando e ci stanno iniziando a ragionare, credo che non sia così in tutti i giornali italiani. Allora, direttore. Sull'iPad la cosa interessante è che è uno strumento che ti permette di fare di innovare davvero, di fare una cosa diversa, ti permette di mettere di tenere in vita l'idea del giornale cartaceo con la stessa struttura, lo stesso tipo di qualità, però ti permette di fare questo in maniera multimediale e eventualmente anche aggiornata durante il giorno, però non il sito, il giornale di carta. Probabilmente potrà nascere qualcosa di nuovo e di diverso, non so se poi avrà successo, se funzionerà, però io penso che siamo obbligati a farlo, obbligati a sperimentare. Tornerei un attimo indietro sulla storia dei finanziamenti ai giornali, che è un punto fondamentale. Ci sono, dicevate, molti tipi di finanziamenti. Il tipo di finanziamenti che riceve per esempio un giornale come La Stampa sono finanziamenti indiretti e sono degli aiuti, delle agevolazioni sulle tariffe postali, sulle tariffe telefoniche. Vi devo dire però questo, io sono dell'idea che andrebbero aboliti. Andrebbero aboliti innanzitutto perché non hanno questo peso, questa importanza e quindi non hanno alcun senso, perché danno l'idea che ci sia una dipendenza dai soldi pubblici che sarebbe meglio spendere altrimenti, e secondo poi per noi non hanno alcun senso. Tariffe postali, ormai pochissime copie sono distribuite con La Stampa, e le tariffe telefoniche ci sono delle agevolazioni che sono fatte se uno fa l'abbonamento per esempio con Telecom a prezzo pieno. Allora in una logica di mercato, se noi oggi andassimo sul mercato possiamo comprare tranquillamente delle tariffe più convenienti, che quindi non hanno bisogno di comprare tariffe piene e poi di chiedere gli sconti dei finanziamenti al pubblico per poter avere delle riduzioni di costi. È molto meglio andare sul mercato ed evitare di spendere quei soldi. Incidentalmente, io sono d'accordissimo con quello che dice il direttore Calabresi. Noto naturalmente che l'incidenza dell'agevolazione indiretta varia per gruppo editoriale a seconda del tipo di prodotto e quanto è ancora diffuso online. Cioè, io che dichiaro ai microfoni di Radio 24 che sono per l'abolizione, non posso non tenere conto del fatto che l'azienda per la quale adesso pro tempore conduco questa trasmissione, come nemmeno delle agevolazioni, poiché il Sole 24 Ore è il tipo di quotidiano su cui il totale degli abbonati per i servizi che dà alle professioni, ai commercialisti eccetera è molto diffuso sul totale della diffusione, significa perdere 20 milioni di euro in meno, e chi ascolta è in grado di valutare che 20 milioni di euro l'anno non è proprio una piccola incidenza, anche se però io la penso come il direttore Calabresi. Prego, l'ho interrotto. Aggiungo questo, c'è l'idea di dare poi i soldi ai giornali di partito, alle cooperative. Io penso che questo è in parte è un malcostume che andrebbe abolito, soprattutto in tutti quei giornali che sono dei finti giornali, esatto, che utilizzano, che fanno, esatto, delle finte cooperative. Adesso io per esempio nel territorio dove sono ho un piccolo concorrente, un giornale locale che comunque vende copie, che in edicola costa solo 20 centesimi, che però prende un cospicuo finanziamento pubblico, e non si capisce perché io debba concorrere tutti i giorni con un giornale che si può permettere di costare un euro meno di me e che però il resto lo prende dallo Stato, lo prende dal contribuente. Detto questo, però, oggi per esempio si sono salvati anche nelle ultime decisioni governative, si sono salvati questi finanziamenti e si sono tagliati per esempio i finanziamenti ai giornali di lingua italiana che sono all'estero. Io invece quelli per esempio li avrei salvati, perché un giornale come per esempio America Oggi, che si trova negli Stati Uniti in tutta la costa est, è un giornale che io vedevo che c'era nelle scuole americane, nelle università, e che era un veicolo per diffondere l'italiano. Allora, due soldi lì li avrei spesi perché aveva un senso, mentre li avrei tolti a tutti quelli che in maniera truffaldina costituiscono delle piccole associazioni, si collegano a un gruppo parlamentare per poter poi stare sul mercato in maniera scorretta. Ora, problema Berlusconi, perché ripeto, molti ascoltatori chiedono di sapere come vive e come interpreta. Due opinioni affiancate, oppure un giornale deve avere un'opinione di fondo sui temi della politica, la riforma istituzionale, insomma di questo sedicennio berlusconiano. Lei come vive? Quanto equilibrio e quanta linea mette sulle questioni di fondo? E poi, esiste davvero un impatto di Berlusconi sulla libertà di informazione in Italia così significativamente diverso da un Sarkozy in Francia che poi fa licenziare chi parla in un certo modo, o tante altre modalità che contano anche negli altri paesi? Che ne pensa? Allora, l'idea delle due opinioni, io sono allergico all'idea che si debba pensare che la buona informazione è fatta mettendo due interviste contrapposte, due editoriali contrapposti. È troppo facile, allora uno vuol dire che il giornale non ha un'anima, non si prende la responsabilità di scegliere, di avere una propria opinione su un fatto, ma ve ne offre due, fatevi voi la vostra idea. Ma il giornale non è una sorta di supermercato in cui puoi comprare un detersivo o un altro. Insomma, gli angeli ci proporrebbero anche un diverso Ponzio Pilato, se fosse bastato. Esatto. Allora, che un giornale si prenda la responsabilità di dire ai lettori su questo tema questa è la nostra posizione, altrimenti addio l'idea appunto di dare chiavi di lettura, approfondimenti e di proporre un'opinione. Per cui da questo punto di vista non penso che si possa fare questo. Dall'altro, non c'è dubbio che siamo in una fase in cui dal punto di vista del governo, qui parliamo di Berlusconi, ci sia una sorta di pressione, ma che non è una pressione diretta. Io non ricevo telefonate dal Presidente del Consiglio o dagli uomini che lavorano con lui per dire deve fare una cosa, deve fare un'altra, o per fare pressioni o minacce o cose del genere. Certo, poi Berlusconi arriva a Torino, sventola una copia della stampa e dice questo giornale, cosa non vera, sta facendo campagna per una parte, in questo senso era in questo caso era l'Abrezzo, è una cosa che non va bene. Certo, questi sono attacchi che secondo me un Presidente del Consiglio dovrebbe evitare di fare. La fermo un secondo per dire che c'è stato chi ha scritto, lei non deve dire nulla, né io intendo chiederglielo, perché non mischio cose personali con le funzioni del direttore. C'è chi ha scritto però che il motivo della ragione dell'incacchiatura del Presidente del Consiglio per la stampa che sosteneva l'Abrezzo era anche coinvolgimento di familiari del direttore che abbiamo al nostro microfono, che avrebbe diffuso volantini per questo o quel partito. Quando anche fosse avvenuto, secondo me confondere aspetti di libertà personale con come viene fatto un giornale che dovrebbe essere giudicato da quello che c'è scritto e da questo che si giudica il direttore di un giornale, secondo me un pochino però è un vezzo dei politici molto sbagliato. Sì, mi scusi se l'ho interrotto, ma non voglio che dica nulla su questo. A parte che quella cosa non è vera e non sta in piedi, ma il punto è questo. C'è un'idea sempre di pensare che qualunque cosa si faccia, allora deve avere dietro tutta una lettura doppia, tripla. Questo qui è un male dell'Italia. Io i primi tempi qui ci soffrivo, perché ogni volta che facevo una scelta che a me piaceva dal punto di vista giornalistico, il giorno dopo vederne 200 interpretazioni diverse, fatto la patria di Machiavelli, le faccio un esempio pratico. Nei primi giorni che è partito il Frecciarossa, noi abbiamo fatto moltissimo qui sul fatto che i pendolari si lamentavano a Torino, sul e hanno Milano, pensato, ecco, che preparano la strada NTV di Montezemolo. Esatto, Montezemolo tra 2-3 anni avrà il treno, prepara la strada. Ma allora io la risposta, ho avuto anche delle telefonate abbastanza accese su questo, la risposta è: ma secondo voi allora ci inventiamo i pendolari? Fare? Al mio lettore, al pendolare inferocito gli devo dire no, non posso dire niente, ma non scherziamo. Va bene, allora il tempo del Messi è esaurito, io ringrazio Calabresi, abbiamo constatato che è troppo poco, un'ora per lui, quindi presto spero di tornare a disturbarlo per averlo invece ospite su magari qualche fatto del giorno. Comunque è stato il direttore con cui più abbiamo parlato della nuova tecnologia e dell'evoluzione dei giornali. Io credo che i giornalisti italiani devono aprirsi la testa, altrimenti molti di loro nei prossimi anni andranno inevitabilmente a casa e sarà un po' colpa loro. Grazie ancora a Mario Calabresi, l'appuntamento con noi è a domani. Yeah.